sulla mano. Perché io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Noi vogliamo mangiare le navi della Marina Militare, ma fra non molto saremo chiamati disoccupati, cassintegrati. E noi abbiamo presentato al servizio dello Stato un selfie e un gelato, però facendo il diavolo a quattro, perché il buon esempio deve venire dall'alto. Condannato a 6 anni di galera con il referendum che faremo in primavera, come le mele della Valtellina che noi speriamo di cacciare dall'Emilia mentre ci sono palloncini. Noi non vogliamo i clandestini. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Io mi vergogno di un paese che dà 200 euro al mese. Fuoco alle polveri. Go Hal Paul Berry. Radio Bomba. La settimana di sangue. È un'autentica carneficina. Dopo 3 giorni di scontri, l'Hotel de Ville, sede del Consiglio della Comune, viene dato alle fiamme dei comunardi insieme ad altre sedi istituzionali. Un disperato tentativo di rallentare l'avanzata dei versillesi che non funzionerà. Ormai stritorati dall'avanzata lealista e chiusi alle spalle dall'esercito prussiano, i ribelli si trincerano nei quartieri orientali, alla Villette, Belleville, Charonne, Nation, Bercy, Vincennes. Vengono erette barricate e si prepara l'ultima disperata difesa, mentre i colpi di cannone piovono dappertutto. Per 2 giorni i comunardi si battono con coraggio e disperazione. Alcuni dei personaggi chiave di questa esperienza, come Eugène Verlaine, muoiono nel quadrilatero di Belleville, il quartiere operaio che resiste fino al 28 maggio, e in cui si verificano alcuni degli episodi più drammatici di quella che passerà alla storia come la settimana di sangue. Il giorno seguente, il forte di Vincennes, ormai accerchiato, darà la resa e alla fine dei combattimenti. Difficile stabilire quante siano state le vittime della battaglia e soprattutto della repressione che ne seguì. Le stime variano dai 20.000 ai 40.000 decessi. Altrettanti vennero poi processati, condannati e incarcerati. Una buona parte venne spedita a scontare la pena nelle colonie francesi sparse per i 4 angoli del mondo. Molti artisti di varia natura hanno dedicato alcune delle loro opere al ricordo della Comune e della Settimana di Sangue. Jean-Baptiste Clément lo ha fatto con la canzone La Semaine Sanglante, di cui riportiamo una strofa assai significativa qui sopra. Cerchiamo, imprigioniamo, fuciliamo tutti coloro che riusciamo a trovare, madri insieme alle figlie, bambini tra le braccia dei vecchi, le bandiere rosse fanno spazio al terrore, diretto contro i miserabili, che tornano a essere sudditi di re e imperatori. Eccoci. Questo era la settimana di sangue, tratto da Cronache Ribelli, che ormai leggiamo da 2 anni. Sì, e parlava della repressione e della fine della comune di Parigi. Di Paris. Sì. Benvenuti, 96esima puntata di Fuoco alle Polveri, diretta su Radio Wombat per l'ennesimo lunedì. E salutiamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. E ci autosalutiamo. Salve. Evviva! Di cosa parliamo oggi? Tanto ormai. Di elezioni. No, non è vero, ne parlano tutti. Noi non ne parliamo di elezioni. Cioè, noi parliamo di una buona notizia, fra l'altro. Un'ottima notizia che è arrivata giusta oggi alle 1. È fresca. Sì. Bella notizia, fra l'altro. Dai. E si sta parlando della sentenza del TAR riguardo all'ampliamento dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze, la grande battaglia che va avanti da tanto tempo, con vari ribaltamenti, perché giusto poco tempo fa era stato dato il via, però alcuni comuni, i comitati e alcuni comuni della Piana Fiorentina, in particolare si sta parlando di Sesto, Calenzano, Campi e Signa, hanno fatto ricorso al TAR e il TAR lo ha accettato, quindi c'è qualcosa che non va, anzi diverse cose che non vanno. Buono. Noi ne sappiamo la sega e quindi chiamiamo, poi chiameremo chi di dovere. Chiameremo poi chi di dovere. Chiameremo poi chi di dovere. Parleremo del grande hack meeting che quest'anno si terrà in quel del Next Emerson a Firenze. Sì. Quest'anno, a dire la verità, fra poco, fra tre giorni. Sì, quest'anno, fra qualche giorno. E sì. Siateci. E poi cosa parliamo? Rubrichette. Rubrichette e un po' di musica. E via, un po' di musica. Un po' di cinema, subito. Cominciamo subito con la prima musica. Canzone. Eccoci, sì, sì. Ora ci siamo davvero. Bello. Allora, dicevamo aeroporto. Dicevamo aeroporto, appunto. Notizia di oggi verso l'ora di pranzo. L'abbiamo letta. È uscita a luna. E del TAR della Toscana che ha accolto il ricorso presentato dai comuni che tu dicevi prima. Sì, mi sono sbagliato. Signa non c'è. La sentenza sta parlando di Sesto Campi Bisenzio, sì. E Calenzano, Poggio a Caiano, Carmignano e Prato, leggo io. Ecco. E che appunto era stato fatto contro il decreto di via. Però cioè, per lo sblocco dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze. Adesso direi che ci facciamo raccontare brevemente la faccenda. Anche perché qua appunto si legge un sacco di cose, l'illegittimità di questo, la violazione di quest'altra norma. Però magari così se stiamo chiamando Sebastiano, che è un attivista del presidio, sì. No Aereo No Inch. Quindi sicuramente ci saprà spiegare meglio di che cosa si tratta. Via, proviamo. Dovremmo sentire squillare. Tipo, vero? Forse. Eccolo! Aspetta a cantare la vittoria. Poca avete. Sì, pronto. Sì, ciao Sebastiano, benvenuto su Radio Wombat. Ciao, buonasera a tutti. Bentornato, ciao. Direi, visto che varie volte ci siamo collegati con, sì, con voi e con col presidio No Aereo No Inch, ma anche con te in particolare. Tutto bene? Certo. Stai bene? Tutto bene? Una bella giornata oggi? Sì, finalmente una buona notizia, diciamo, dopo tanti, tanti anni di lotta e insomma la manifestazione del mese scorso, di due mesi fa, con quasi 10.000 persone, ora oggi questa sentenza comunque ci dà ancora più forza per abbattere questo progetto inutile e dannoso. Ecco, spiegaci che cosa dice questa sentenza e che cosa rappresenta anche per la lotta contro l'aeroporto, perché è abbastanza specifica, nomina le norme violate. Io ho qui davanti a me, dice illegittimità dei provvedimenti impugnati, l'incostituzionalità dell'articolo 23, bla bla bla, poi dice appunto tutta un'altra serie di violazione delle direttive 2011-92. Che cosa vogliono dire tutte queste? Sì, praticamente intanto questo ricorso è stato fatto anche dai comuni contrari, che sono quelli di Sesto, De Campi, Calenzano, che avevamo anche invitato infatti alla manifestazione. Praticamente questa sentenza cancella la VIA, cioè la valutazione di impatto ambientale, che era stata approvata dai ministeri dell'ambiente, che praticamente perché? Perché sostanzialmente si dice, i giudici riconoscono che nel progetto si rimanda tutte le prescrizioni ambientali a un dopo, quindi sostanzialmente si dice fate i lavori, loro volevano fare i lavori e poi vedere cosa succedeva poi, poi ecco. Le prescrizioni avrebbero applicate dopo, invece come si sosteneva noi, quest'opera non è fattibile perché non ci sta ambientalmente un aeroporto di quelle dimensioni nella piana Cerentina. Ecco, la VIA è l'atto ultimo, giusto, prima dell'inizio dei lavori di fatto? Certo, con la VIA praticamente essendo a livello ministeriale poi saltava tutte le altre autorizzazioni, le comprendeva tutte e quindi dava, diciamo, loro potevano cominciare i lavori. Ecco, e quindi c'è stata la sentenza del TAR, loro avranno, immagino, la possibilità di ricorrere in una corte d'appello, non so se... Sì, certo, il tribunale amministrativo ci sono due gradi, il tribunale regionale, appunto il TAR è questo primo grado, e poi c'è il secondo grado a Roma, al Consiglio di Stato. Ah, ecco, immaginiamo di Stato. Che loro ricorreranno, così faranno anche i comuni, così faranno anche i comitati, e vediamo, insomma, però chiaramente per loro una bella batosta, e perché forse volevano provare a cominciare i lavori in attesa delle sentenze. Ecco, magari lo sappiamo, lo sanno ascoltatrici e ascoltatori, però riportiamo anche all'attenzione quali sono le più grosse violazioni e appunto sotto il profilo ambientale, soprattutto quali sarebbero state, quali saranno le conseguenze se questo aeroporto verrà ampliato. Sì, chiaramente appunto per fare un'opera del genere vorrebbero distruggere il previsto Parco della Piana, che è un'opera che era programmata da tutti i piani regionali e comunali da più di 20 anni. Propedeutica, tra l'altro. Come, scusa? Propedeutica alla costruzione di tutte le infrastrutture della Piana, fra l'altro, se non mi sbaglio. Scusa, ti sento malissimo. No, dicevo, il Parco della Piana in teoria sarebbe propedeutico, quindi dovrebbe essere costruito prima di tutti gli altri impianti. No, il problema è che se con questa nuova pista ci passerebbero dentro al parco, quindi loro dicono che lo farebbero lo stesso, ma in realtà sarebbe un parco intorno a una mega pista di 2500 metri, quindi insomma non sarebbe proprio sarebbe un parco un po' imbarazzante. Bene, quindi ma per voi questa rappresenta una vittoria finale secondo te, oppure ci saranno altre lotte, altre manifestazioni, altre contestazioni da portare avanti? No, sicuramente è un passaggio, no? Non fine la pista, la lotta è ancora lunga e lo sappiamo, per questo abbiamo lanciato anche questo presidio domani alle 18, proprio davanti all'aeroporto dove finì la grande manifestazione di due mesi fa, perché vogliamo non solo festeggiare questo primo tassello, ma anche per ribadire che noi vogliamo costruire un vero parco della Piana e anche lottare per ridimensionare l'aeroporto attuale che impatta su molti abitanti. Ecco bene, e quindi i vostri prossimi passi, abbiamo detto domani un presidio, a che ora è? Alle 18 domani davanti all'aeroporto in viale Luder. Bene, perfetto. E immagino che l'umore sia abbastanza alto attualmente fra gli attivisti e le attiviste. Sì, perché appunto comunque è una lotta lunga e questo è un primo tassello e comunque ci dà una bella spinta a continuare in questa direzione. Bene, benissimo. Allora, grazie. Niente, rilanciamo l'appuntamento di domani, si ripetiamo alle 18 davanti all'aeroporto, vi sarà il presidio. Ci vediamo domani. Ci vediamo domani, un invito a tutti e tutte. Grazie mille Sebastiano, grazie. A presto. Grazie a voi, a presto. Ciao. Viva Radio Wombat, ciao. Viva Radio Wombat. Certo. Anche secondo noi, grazie Sebastiano. Okay. E quindi vedi che ha pagato tutto lo sfoglio, gli sforzi innumerevoli fatti negli ultimi anni, si può dire che sono davvero tanto tempo che stanno portando avanti lotte. Tra l'altro lo stesso gruppo, all'incirca lo stesso gruppo di persone sull'inceneritore, dove vi è stata una vittoria definitiva, l'inceneritore non verrà fatto. E tra l'altro poi appunto i comuni della Piana hanno avviato tutti dei programmi di raccolta differenziata, porta a porta. Quelli stanno già, cioè sono già iniziati. Sono già attivi, sì. A parte Firenze. A parte Firenze in generale, nel senso che nell'ambito della città metropolitana, poi è Firenze quella che ha sempre spinto per l'inceneritore e soprattutto per l'aeroporto. Ed è non soltanto proprio, cioè non è Firenze, è il PD fiorentino che ne fa quasi l'unico punto all'ordine del giorno insieme a. Tra l'altro è incredibile, gli casca questa tegola nei denti proprio oggi che il PD fiorentino, a quanto sembra dagli spogli che sono in corso, sta riscuotendo una vittoria netta, con un grosso distacco nei confronti degli avversari. Però chissà, vedi, se questa cosa succedeva qualche giorno prima. Bastava 2 o 3 giorni fa, non lo sappiamo. Sta di fatto che si allunga ancora di più, sicuramente sarà ancora più difficile per il PD fiorentino e tutti i loro amici costruttori eccetera eccetera, a portare avanti quella che sembra davvero essere l'unico loro scopo di costruttori e non solo, perché tanti imprenditori si strusciavano le mani, visto che un aeroporto era calcolato non so quanti milioni di ingressi di atterraggi di persone avrebbe portato oltre a quelle già consistente che arrivano ogni giorno a Firenze. Quindi mi viene da pensare alla ristorazione, mi viene da pensare davvero dai musei fino agli alberghi, bed and breakfast e via discorrendo. Questa qua per noi è un'ottima notizia, per loro no, però insomma noi tifiamo per noi naturalmente. Esatto. E quindi andiamo a un altro pezzaccio, che oggi voglio mettere un sacco di pezzacci. Bravo. E poi dopo se ne va di Acme Meeting. Dai. 즐거운 음악 뉴스의 정아입니다. 여기 이탈리아에서는 굉장히 유명한 가수가 있다고 해서 왔는데요. 기대가 되는데요. 들어볼까요? 들어보세요. September. 바람이 di come puoi volare e di come non senti più il male. Dell'uomo che hai sognato, di quel giorno poi che l'hai sposato. Parlami di favole malate e del tale che le raccontate, delle mani che ti sei lavata, della faccia tua che si è girata. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Parlami di come hai controllato le emozioni e le paure strane. Parlami dei sensi della colpa e di come si sono sciolti al sole. Che ti hanno lasciato per sempre. Smettere di fare quei commenti. Parlami dell'oro che trovi. lasciato un nuovo nato per sempre. Parlami di tutte le paure, di quella che ha tua madre di morire per sempre. Regia nella tana del Wombat, che piano piano si sta evolvendo, sta cambiando, si sta colorando. E ci segnalano che comunque continuano a non funzionare diverse cose, quindi siamo, esatto. Abbiamo avuto un buco dopo la telefonata e che speriamo di essere in diretta adesso. E ci scusiamo, sì, non abbiamo detto niente di che in realtà, mi sembra. No, non abbiamo detto più, quindi va benissimo così. Andiamo avanti. Però ci sarà un podcast da riascoltarsi. Andiamo avanti, si parla di Hack Meeting. Sì. Si parla di Hack Meeting perché naturalmente siamo prossimi, come dicevamo poco fa, si svolgerà a CSA Next Emerson a partire da giovedì fino a venerdì. Abbiamo qua un attivista del Hack Lab fiorentino. Ciao Matteo. Ciao. Intanto niente, grazie di venire a spiegare questo programma, perché alcune cose vanno spiegate, mettiamola grazie così. Grazie a voi, io spero di essermi all'altezza. Vabbè, ma guarda, sì, non abbiamo dubbi noi su questo. È un piacere parlare di Hack Meeting, un po' perché è un piacere tutti gli anni, un po' perché noi veniamo anche da lì, noi in quanto Radio Wombat, la radio, sì. Stavo leggendo prima dalla storia, c'è una piattaforma Hack Meeting dove si trovano... facevi vedere tutti i vecchi siti di tutte le edizioni. Nel sito di quest'anno c'è una grafica fighissima e c'è una finestrella con la storia, e fin dal primo, che era il 1998, scusate, che si è svolto al CPA, fin dal primo si parla di radio. Quindi la radio è sempre stata un po' una costante di questo, fino addirittura a fare un po' nascere, no, la riappropriazione delle M, che poi si è materializzata con le nostre radio, che sono Radio Wombat, Radio Gramma di Genova, Radio Gramma di Genova, Radio Spore nuovissima a Bologna, Radio Neanderthal napoletana. Questo veniva fuori dalla Hack Meeting 2017 nello specifico. Però andiamo al programma, Matteo. Sì, certo. A proposito della radio, in effetti ci sarà tra l'altro una interessantissima tavola rotonda, che in realtà non si occupa primariamente delle radio in quanto tali, ma delle trasmissioni ospitate dalle radio autogestite. Sì, e delle trasmissioni hackerose, sì, se non mi sbaglio. Esattamente. Dove abbiamo Coccoli al Silicio per Firenze, la presa per Radio Onda Rossa di Roma, e Stacca Stacca, la Blackout di Torino e varie altre. Da Cosenza ho visto. Sì, in realtà queste esperienze sono per fortuna sparse in tutta Italia, e infatti Hack Meeting ospiterà gente da tutta Italia e non solo, in realtà ci saranno anche ospiti internazionali, e sarà anche interessante scambiarsi le esperienze anche sulle radio, che come hai detto tu è stata un'esperienza pregnante fin dall'inizio della nascita della comunità di Hack Meeting. E fra l'altro sarà tutto, no, non tutto, però buona parte sarà seguito da Radio Wombat, quindi sarà possibile ritrovare i contenuti per chi non potesse venire a Firenze. Vi saranno tutti i contenuti in podcast e via discorrendo, così come è stato fatto per tanti altri eventi. Che fra l'altro sarà grande conquista per Hack Meeting, perché pare, cioè, da qualche anno, almeno da quando lo conosco così, spariscono le registrazioni, sì, dei, sì, seminari, cioè, c'è, no, sempre qualcuno se la colla e poi spariscono, non ci sono più. Pare che in un certo momento ci fossero state, poi invece non sono arrivate. Non è detto che non succede anche quest'anno, cioè, no, c'è il Wombat, c'è il Wombat, famoso Wombat che non ha mai problemi, che carica, esatto, sempre tutto. Sì, quindi anche questa volta noi deleghiamo la vostra responsabilità. Fate male, va bene, dai. No, noi siamo molto ottimisti in questo senso. Quindi niente, sostanzialmente da giovedì noi iniziamo al Next Emerson con questa, sarebbe una 4 giorni, anche se in realtà il giovedì è un'accoglienza con un'assemblea iniziale di organizzazione dell'evento e un ottimo concerto che invitiamo a partecipare a tutti. E da venerdì e sabato si svolgeranno i cosiddetti talk, talk, scusate il mio inglese, i talk, più i talk all'italiano. L'assemblea alle 19, giusto? Sì, alle 19 di giovedì ci sarà l'assemblea logistica, un'assemblea iniziale. E dopodiché le assemblee in realtà saranno fatte praticamente quasi ogni giorno tranne il sabato, per finire in un'assemblea di chiusura dell'hack meeting domenica mattina. L'organizzazione dell'evento sarà in, appunto, con questi talk, che sono dei seminari a carattere più o meno pratico, e quest'anno in particolare che l'evento vuole essere dedicato al tema dell'autogestione, cosa che in realtà sembra anche un po' scontata considerando che tutti gli hack club e le realtà affine ad hack meeting sono, e hack meeting stesso è sempre stato fatto in un in luoghi autogestiti, nella maggior parte dei casi occupati, e la comunità Hack Meeting ha una grossa affinità con i movimenti sociali e politici e una grossa politicizzazione. E in questa edizione abbiamo cercato di dare anche risalto o di dare un po' di spazio a dei seminari di carattere, diciamo, per non necessariamente di carattere troppo tecnico, quindi ci sono anche dei piccoli corsi introduttivi che possono permettere di seguire anche dei seminari un po' più tecnici avendo qualche base in più. Sì, posso citare, certo. Io guardo giusto da venerdì dopo pranzo c'è corso base di GNU Linux. Sì, corso base di GNU Linux. E poi gestione di un server casalingo. Sì, queste sono tutte delle esperienze che aria tira questo qua? Che aria tira è esattamente un'esperienza fiorentina che voi conoscete bene. Esatto, se ne parlava poco fa, tra l'altro, con Sebastiano. Il tema è quello, no? Il tema è esattamente quello. Tant'è vero che all'Emerson c'è tra l'altro una centralina che dovrebbe essere quella che tara tutte le centraline fiorentine per la rilevazione degli inquinanti dell'aria. E in questo caso verrà mostrato come poter costruire una centralina, infatti, nel corso dell'evento. Oh, bravi! E poi ci saranno diversi altri seminari che invito chi è interessato a guardare il programma fittissimo dell'evento, ma tra cui mi preme ricordare, diciamo, quelli un pochettino più edibili da questo punto di vista, quindi sull'autodifesa digitale, che è un tema mai troppo sottolineato, e varie altre cose interessanti. Una cosa interessante per Firenze, tra l'altro, può essere l'esperienza torinese di questo software Gancio, che mira a creare un calendario degli eventi degli spazi autogestiti cittadini. Potrebbe essere molto utile. Questa è una cosa molto interessante che probabilmente credo che sarà fagocitato anche da Firenze. Dopodiché gli seminari, volevo dire anche che si svolgeranno da mattina a sera, da mattina a notte in realtà, cioè fino a mezzanotte sono previsti i seminari, dopo mezzanotte non si finisce. Ci saranno i 10 minutes cosiddetti, ovvero 10 minuti di chiacchiere, spiegazioni. Ogni 10 minuti si cambia. Ogni 10 minuti sì. Il relatore viene buttato fuori malamente. E quindi diciamo che sarà un continuum di seminari fino alla domenica mattina, quando, come dicevo, ci sarà l'assemblea di fine meeting. Ecco, questa cosa del pranzo è sabato pomeriggio, vedo. Cosa? Il gancio, questo è sì. Uno strumento di condivisione di eventi radicali. Sì. Sarà il sabato dalle 17. 17:30, 17:30. Esattamente. E questa è un'esperienza che a Torino già stanno provando a farla funzionare, e sembra che funzioni. Insomma. Speriamo, perché gli eventi fiorentini radicali, come li chiamate voi, spesso si sovrappongono. Necessitano di un coordinamento, sicuramente, e non può che fare bene. E, poi si diceva. Sì, esatto. Il programma si svolgerà in vari spazi del Next Emerson. Vedo che sono stati allestiti ben tre spazi in particolare, dove fra il bistrò, la sala biliardo e la sala concerti, sì, che sono spazi abbastanza grandi, e poi c'è uno spazio Binart. Sì. Spiegaci un po' questo Binart. Allora, Binart è una cosa bellissima, veramente molto bella, è una mostra in realtà, concepita nel modo più classico, nel senso più classico, è stata allestita in diversi giorni di duro lavoro e rimarrà fruibile, è già fruibile, è stata inaugurata lo scorso 12 e rimarrà fruibile fino alla fine di ACMeeting. E di cosa parliamo? Allora, ci sono in Italia, sempre all'interno della comunità ACMeeting, sono nati due musei di archeologia informatica, in particolare uno a Cosenza e uno a Palazzo Lacreide, il Museo Interattivo di Archeologia Informatica e il Museo dell'Informatica Funzionante, che hanno curato l'allestimento di questa mostra, che è alla seconda edizione. La prima è stata al Forte Prenestino l'anno scorso e quest'anno è già presente e possibile da visitare al Next Emerson. Si tratta di una retrospettiva sulla computer art. In realtà, secondo me, è anche poco... il titolo non esprime bene la totalità di questa mostra, perché non è soltanto... perché di solito uno si immagina il computer o le macchine come un mezzo attraverso cui si può fare arte, e questo è sicuramente una gran parte dell'argomento, ma in realtà c'è qualcosa in più. Chi verrà a visitare la mostra Binart potrà vedere addirittura delle macchine che, nel momento stesso in cui lo spettatore, il visitatore le osserva e le interagisce, creano l'opera d'arte. E questo ovviamente è sia questo sia il carattere interattivo di ogni opera presentata in questa mostra è sicuramente uno degli aspetti più coinvolgenti e più interessanti. Ci sono opere dal 1960 fino al 2001, nella maggior parte dei casi le opere sono o originali o delle ricostruzioni fedeli con delle macchine dell'epoca, quindi vi si trova dal Commodore 64 all'Amiga o a vari di queste vecchie macchine che qualcuno può forse ricordare. La mostra è visibile durante ACMeeting in gruppi, perché necessita di un minimo di guida, un minimo di spiegazione anche per fruire al meglio delle opere esposte. Gli orari durante ACMeeting saranno comunicati al più presto, nel frattempo però prima di ACMeeting può essere visionata martedì, se non ricordo male, non vorrei sbagliarmi, però martedì dovrebbe essere dalle 17 alle 20. E basta, venite a vedere, perché è veramente un'occasione unica. Certo, chi può andare a Cosenza o a Palazzo Lacreide in provincia di Siracusa, chi non può al Next Emerson. E faccia anche la svelta, perché comunque a fine di meeting è questa settimana, quindi ho un po' fino al 2 rimarrà però poi oppure a Cosenza. Sì, il 2. Bello, posso leggere il trafilettino di presentazione della mostra? Ma certo. Binart, la mostra. Nato per risolvere problemi numerici, il calcolatore elettronico ha fedelmente servito e progressivamente alimentato l'ideologia di una società in cui tutto è quantificabile. Rapporti sociali, economici, si potrebbe dire le nostre stesse vite, vengono misurati da una fitta rete di sensori, digitalizzati, organizzati, analizzati, elaborati da sofisticati software, trasformati in nuovi oggetti numerici che vengono trasferiti, importati e riprocessati in una continua, muta dialettica di ingressi e uscite. Ma fin dall'inizio della nuova era digitale, un impalpabile evento di futilità ha iniziato a serpeggiare tra i circuiti dei primi cervelli elettronici. All'inizio sembrava quasi una cosa innocente, un gioco. Lo stesso Alan Turing, padre dell'informatica teorica e creatore del primo calcolatore digitale elettronico programmabile, si dilettò ad esplorare le potenzialità di questa nuova macchina come strumento musicale. Nel 1951 il suo gigantesco computer emise i primi sgraziati suoni articolati. Poco dopo e dappertutto iniziò ad essere esplorata coscientemente la possibilità di inserire e di gestire all'interno della macchina elementi esterni, logiche oblique, quantità imponderabili, algoritmi onirici. In una parola, il caos. Nella sempre più compiuta simbiosi uomo-macchina della modernità, lo spazio inferiore dell'uomo è stato colonizzato anche dall'algida logica binaria del calcolatore elettronico. Al tempo stesso, il più umano degli elementi, l'arte, ha invaso lo spazio digitale, mutando costantemente la natura dell'ordinateur. La mostra BinArt ripercorre la storia dell'arte digitale, presentando i lavori di alcuni pionieri della computer art in una retrospettiva che parte dai primissimi esperimenti degli anni 60 attraverso la rivoluzione dell'home computing degli anni 80 per approdare quasi al nostro tempo. Tutte le opere sono a disposizione dei visitatori funzionanti su sistemi e supporti d'epoca oppure, nei pochi casi in cui questo non è stato possibile, in una loro reinterpretazione attualizzata. Questa è la descrizione che potete trovare sul sito BinArt. C'è questa opera di Turing, tra l'altro? No, il fattore di Turing era un'analogia. In realtà ci sono molte opere che possono essere paragonate agli esperimenti che faceva anche Alan Turing. Volevo dire una cosa, che ho detto una cappellata, nel senso che il programma per adesso, quello comunicato, si ferma sabato 25 scorso. Questa settimana invece il programma recita così, che nella settimana di Hack Meeting gli orari subiranno dei cambiamenti per aumentare i giorni e le ore di apertura e verranno comunicati attraverso la griglia del programma che potete trovare sul sito hackmeeting.org. Per cui sul martedì non ci metto la mano sul fuoco, ma anche se in realtà in questi giorni noi saremo sempre lì a lavorare per bello. Io a lavorare per voi, esatto. Ma io l'ho in parte vista e... che ne hai pensato? No, fighissimo, bellissimo. Ma se non ho capito male, la domanda è: ma l'arte può essere fatta da un computer? Sì, da è una proprio questo. Da una macchina artificiale, ecco, diciamo. Sì, questa è può la essere domanda considerata arte? Che è chiaramente destinata ad essere a rimanere senza risposta. Però diciamo che chi viene a visitare la mostra può farsene un'idea, tutto al più. D'altra parte c'è da dire anche che le tante critiche, dubbi e riflessioni sono state fatte, per esempio, sulla macchina fotografica. Cioè, laddove... Sì, quando uscì le prime macchine fotografiche era la stessa domanda che ci faceva. Appunto, per cui, francamente, io non mi sono fatto un'idea su questo, perché la domanda è troppo profonda e ci affogherei. Però, secondo me, è una questione dei tempi che percorriamo. Il pioniere è sempre un po', diciamo, cosiddetto pioniere, un po' avanti rispetto alla sensibilità comune, per cui vale comunque la pena, è qualcosa di fruibile, emotivamente e razionalmente fruibile, quindi secondo me il valore c'è là, sicuramente. Sì, anche secondo me, comunque non ti lascia indifferente, a me non ha lasciato indifferente, quindi io posso dire che sì, magari è un'arte che viene fatta utilizzando determinati strumenti, però appunto anche un pennello è uno strumento, certo. quindi in un certo senso c'è sempre questo passaggio. Sì, noi interagiamo sempre tramite strumenti, è qualcosa di quantomeno molto vecchio, sì, esatto, connaturato. E quindi bene, andate tutti e tutti. Quindi ricordiamolo, da giovedì, prima giornata più organizzativa e di accoglienza. Ma con un ottimo concerto che ricordo, esatto, comunque ci sarà modo di stare insieme divertendoci. Chi suona? Ecco, questo è una bella domanda. Vabbè, le sorelle Trapasso. Le sorelle Trapasso sicuramente, poi non so se ci saranno altri gruppi. Bene. Ricordiamo che durante tutti i giorni, vabbè, c'era pranzo, cena, colazione, pranzo e cena, caffè a non finire. Esattamente, e saranno allestiti due bar, tempo permettendo chiaramente, e c'è la possibilità con Saccappello di pernottare all'Emerson. Tutte queste info le trovate comunque sul sito. Esatto, c'è tutti i contatti e come arrivare, è fatto benissimo, trovate i bus, i treni, dove parcheggiare, sì, come dormire, cosa mangiare, tutto. Quindi sì, sì, non dovreste avere problemi. Bene. Buono, e andiamo con un altro pezzaccio. Vai. E poi torniamo qua. Sack, moving charge. Dopotutto, domani... Una bella bestia. Salve a tutti, salve a tutti. Tutti che base? Bellissima. quindi, bella bestia. Da tantissimo che non facevamo in diretta questa follia. E c'è un motivo, direi. L'ultima volta abbiamo parlato dei varani. I varani, sì. Molto bella è stata. Sì, abbiamo detto anche... Aspettato che probabilmente tu fai parte della famiglia di varani. Io? Direttamente? Sì. Okay. Sì. È un po' un varan. Varan boys. Va bene. E lo prendo, lo porto a casa. Oggi invece parliamo di un animale ben più complesso del povero varano, che comunque è abbastanza basico alla fine della fiera. E premettiamo subito che non potremmo essere esaustivi in questa descrizione, perché è una delle robe più complesse che abbia mai forse attraversato questo pianeta. E è il polpo. Polpo. Buono con le patate. Octopus. Infatti esatto, è anche più buono dell'iguana e del varano. Sicuramente, quello poco ma sicuro. E quindi, breve, è un mollusco della classe dei cefalopodi, dell'ordine degli octopodi, del genere Octopus. E noi poi, quando ci immaginiamo il polpo, pensiamo all'Octopus vulgaris, quindi il polpo generico. In realtà ci sono circa 300 specie diverse di polpo, e vivono in tutte le acque della terra, dalle acque poco profonde del mar Mediterraneo alle acque ben più profonde dell'Antartico o dei Caraibi, quindi a tutte le temperature, a tutte le latitudini. E è infatti un animale che si adatta molto bene a tutte le varie variazioni di clima e di ambiente. Perché abbiamo deciso? Vabbè, intanto velocemente, tanto ce l'avete presente tutti: testa abbastanza grossa, 8 tentacoli, doppia fila di ventose su ogni tentacolo. In media un polpo pesa tra 1 e i 10 kg, grande circa dai 5 ai 150 centimetri. Scusa, non sono anche quelli gigantissimi. Ci sono anche quelli di giganti, però diciamo che questa è la media. Ci sono delle specie, però spesso sono altre specie, non sono proprio quelle del polpo. Comunque ci sono anche dei polpi particolarmente grandi. Poi dirò anche perché non è così semplice trovare polpi così particolarmente grandi e poi poterli studiare o comunque vederli proprio. Hanno tre cuori. Tre cuori. Che se ne fanno? Attenzione, tre cuori che pompano durissimo il sangue. Dicevamo, queste specie di polpo, che ce ne sono appunto circa 300, sono molto molto molto diverse tra di loro, tutte molto particolari. Per dire, c'è questo Tremoctopus, che è un, se ve l'ho andato a vedere, un polpacchio, che ha il dimorfismo sessuale più importante di tutto il regno animale. Cioè le differenze tra il maschio e la femmina sono abissali, tanto che il maschio misura in media circa 2,4 centimetri, quindi è piccolo, polpetto. E invece la femmina misura circa 2 metri, attenzione, sì, sul fondazione. E quindi è circa, è circa 100 volte più grande, ora ti spiego anche la fondazione, e circa soprattutto 40.000 volte più pesante la femmina rispetto al maschio. La fecondazione, uno dice, come è possibile? Il maschio riempie di sperma una parte del suo tentacolo, che poi viene, si stacca e va a fecondare, va a fecondare la femmina. Il maschio nel frattempo va a morire, sul fondale, sì. La femmina invece poi partorisce le uova, e una volta che poi le uova si schiudono muore anche lei. Tra l'altro partorisce tra le 40 e le 200.000 uova a botta, di cui poi ovviamente quasi niente sopravvive. col fatto che nessun polpo conosce i propri genitori, certo, mettiamola così, è una roba che ha delle implicazioni ovviamente sullo studio del polpo, nel senso che i polpi non si tramandano culturalmente quello che imparano durante la vita o che hanno imparato nelle varie cose precedenti. Quindi, se vi ricordate, abbiamo parlato dei macachi, sì, o dei capodogli o di altre specie animali che invece si tramandano, per esempio il linguaggio e culturalmente, ok, quindi tramite l'esperienza, non tramite il DNA. Ci sono altre specie ben particolari. Questo Staurotheutis, per esempio, si illumina al buio attirando così le proprie prede, stando nel fondale, più fondale che c'è. L'Octopodiformes ha una, diciamo che sembra un polpo molto vecchio, quindi è molto rugoso e fa abbastanza paura, però è totalmente innocuo, mentre il polpo degli anelli blu, chiamato così volgarmente, è uno degli animali più velenosi del mondo, ha un veleno che è circa 200 volte più potente del cianuro, quindi basta veramente poco per essere fritti. Dov'è che sta lui? In Australia, ovviamente, dove stanno tutte queste bestiacce. Il polpo mimetico non cambia solo colore, perché vabbè, quello lo fanno tutti i polpi, di cambiare colore a seconda dell'ambiente dove vogliono nascondersi, ma addirittura riesce a cambiare forma, tanto da sembrare un serpente marino in certe fasi, un pesce scorpione, addirittura una platessa, cambiando proprio, cioè, questo sì. Mentre poi c'è il polpo di vetro, che invece se ne fotte completamente di tutto ciò perché è trasparente. Bello. Che i polpacci, no? C'è polpaccio, quelli sono ganzi. Sì. Infatti sono tipo... c'è Cthulhu. Sì. È un cavolo di polpaccio. Ora poi sì, ci arriviamo anche a Cthulhu. Ora ci arriviamo anche a quello. Le ultime due cose hanno un'apertura, una fessura sotto la testa, dove c'è un piccolo becco, sì, becco, che becco è l'ultima formazione dura ossea del polpo, che circa 250-270 milioni di anni fa ha perso la conchiglia, grande conchiglia che si tiene nella sua groppa, facendo un salto evolutivo abbastanza importante grazie a questo, e tramite il becco riesce a rompere i crostacei o le conchiglie da cui vuole poi puppare il contenuto. Questo quindi si nutre principalmente di molluschi e crostacei, quindi gli altri abitanti del suo... Oppure del spaccano le mani del buon tuco quando va a pescare. Oppure quello, esatto. Si diceva, vabbè, la fecondazione è simile per tutte le specie. Dopo aver partorito... La femmina protegge le uova finché non si schiudono. Dopo la schiusa muore, anche perché durante tutta la schiusa, che dura circa un mese, non mangia. Non può andare a caccia, non li porta nessuno, perché sono animali completamente solitari, non c'è branco, non c'è niente, quindi non mangia, e quindi a una certa poi scatta. C'hanno le branchie, quindi respirano con le branchie. Le branchie, se un polpo lo cacci fuori dall'acqua e lo tieni con le branchie bagnate, può stare fuori fino a un'ora dall'acqua, quindi è un animale che si adatta anche poi all'ambiente non marino. Tra l'altro anche questo con implicazioni. L'intelligenza che dicevi te, sì, soprattutto negli ultimi anni sono stati molti studi che parlano e che affrontano la questione dell'intelligenza degli animali in generale, e in particolare dei polpi, considerato uno degli animali più intelligenti mai apparsi sulla Terra. In che senso poi si dice intelligenti? Cioè, che vuol dire intelligente poi? Si intende cognitivamente, nel senso della capacità di apprendimento, di adattamento e di riproduzione di determinati movimenti e pratiche che li fanno stare sulla Terra, che le fanno sopravvivere, e sopravvivere anche abbastanza bene. In questo caso i polpi sono stati studiati anche in dei comportamenti, quali per esempio come è stato fatto con le scimmie o con i delfini o con gli elefanti, eccetera. I tentacoli, parte un po' tutto dai tentacoli del polpo. Non sono le gambe del polpo i tentacoli, questa è l'unica cosa sicura. Sono le braccia. Sono le braccia, ma sono anche le labbra, sono anche la lingua e sono soprattutto il cervello. Il cervello del polpo è Non è lì, ma Nelle, cioè, ci sono, m'ero segnato il numero che adesso non vedo, ma papille gustative e terminazioni nervose sono a milioni sulle doppia fila di ventose che ci sono sui tentacoli. Quindi questi tentacoli sono non ipersensibili, non ce lo immaginiamo nemmeno quanto sono sensibili questi tentacoli. E tanto che diversi studiosi hanno ipotizzato che questi tentacoli siano in realtà delle reti, cioè le hanno definite delle reti di cervelli semi-autonomi dal corpo, tanto che un tentacolo continua, anche se tagliato, continua a percepire determinate cose, addirittura il corpo sembra che le continui a percepire anche una volta tagliato. Queste, tra l'altro, queste braccia, diciamo, che riescono a svolgere azioni molto complesse indipendentemente l'una dall'altra, cioè mentre una fa una cosa l'altra fa un'altra, ma si sta parlando che mentre una svita un barattolo perché c'è il mollusco dentro, l'altra riesce ad aprire una porta dove c'è il mollusco, cioè può fare una cosa del genere. Multitasking, tra l'altro. Proprio su questo sono stati fatti gli esperimenti, perché soprattutto negli acquari hanno visto che spesso con le telecamere di notte hanno visto che i polpi riuscivano ad aprire le proprie vasche, andare nella vasche del loro prede, aprire anche quelle, mangiare, e riuscire, tornare e fare finta di non essere successo niente. Tanto che loro, un polpo, anche un polpo di media grandezza, riesce a passare da una porta o da una fessura o da un buco fino alla grandezza del proprio becco. Pensa a te. Cioè, il polpone quella è la parte ossa. Riesce comunque a passare dentro a una fessura di una roba grande quanto 5 centesimi, tipo una monetina a 5 centesimi. Sì. Se il suo becco è quello, perché quella è l'unica parte non modificabile, perché è ossea. Tutto il resto è totalmente modificabile. Chissà gli organi. Tutti in capa. E addirittura, appunto, sono stati fatti degli esperimenti sulla parte cognitiva dell'intelligenza del polpo, per esempio mettendo dei simboli su delle porte, al di là delle porte, poi il cibo, cambiando i simboli e mantenendo il cibo sempre dietro lo stesso simbolo, ci si rende conto che il polpo riconosce i simboli quanto un bambino di 4 anni all'incirca. Quindi questo è il livello, e quindi si ricorda i simboli, e il polpo li legge, ecco. O semplicemente un polpo in un labirinto che deve raggiungere da A a B, ci mette X tempo, l'altro polpo che sta guardando la scena ci mette la metà del tempo, cioè ci arriva immediatamente, quindi guarda, capisce qual è la strada migliore e va. La cosa particolare in tutta questa faccenda, comunque non è particolare, ma è particolare per l'antrocentrismo dell'uomo, l'antropocentrismo dell'uomo, ossia che la linea evolutiva del polpo è lontanissima da quella dell'uomo, mentre cani, delfini, tutti gli animali che sono sempre stati considerati gli animali intelligenti sulla faccia della terra, sono comunque, le scimmie soprattutto, sono in linea evolutiva molto vicini all'uomo. Maiali. Esatto, super vicini. Siamo veramente molto lontani dai polpi, ma veramente veramente, tanto che sembra che l'ultimo antenato comune sia una specie di lumacone vissuto circa mezzo miliardo di anni fa sulla Terra, e quindi siamo più vicini alle stelle marine che al polpone. Nella cultura è quello che dicevi te, Cthulhu, vabbè. Nella cultura il polpo è stato affrontato più volte, stranamente nella cultura classica, quindi nella cultura antica è poco considerato, non appare nelle Metamorfosi di Ovidio e non appare fino alla storia naturale di Plinio il Vecchio, che parla dello Zena, che è una sorta di mostro marino leggendario, molto più sulla mitologia che sulla scienza. Anche Ulisse Aldovrandi, che anche lui è il primo che mette in un trattato pseudoscientifico il polpo, nel 1595 lo tratta in modo mitologico, così negli scritti nordici scandinavi il Kraken è più una bestia mitica, perché poi il fatto che i polpi tirino giù le navi è una roba che che è molto poco probabile, ecco, anche se ci sono degli esempi di polpi giganti, ma è più probabile che l'affondamento delle navi di fronte a dei momenti del genere siano dovuti, per esempio, è più probabile alle fughe di gas metano che ci sono sui fondali, che creano delle bolle il mare che possono aver visto. Vabbè, se la stava anche vikingo e tornava a casa anche alla barca rotta, esatto. Se la cava così. Nel 1800 scoppia la 1700, diciamo fine 1700, con Linneo e la sua storia naturale sempre. Mm-hmm. Ma poi soprattutto con i grandi romanzieri del 1800 scoppia un po' la mania del polpo e la curiosità. Melville, che parla di Capodoglie, in generale di tutto quello che conosciamo, non ne parla mai. Però per esempio Victor Hugo e Jules Verne ne parlano molto. Tra l'altro, se a questo punto tanto abbiamo finito praticamente, io leggerei un pezzettino di Victor Hugo. È la macchina pneumatica che vi assale. Siete alle prese con il vuoto munito di zampe, né di colpi d'artiglio né morsi di dente, ma una scarificazione indicibile. Un morso è temibile, ma meno di un succhiamento. L'artiglio è nulla in confronto alla ventosa. L'artiglio è la bestia che vi entra nelle carni, la ventosa siete voi stessi che entrate nella bestia. I vostri muscoli si gonfiano, le fibre si contorcono, la pelle scoppia sotto una pressione sovraumana, il sangue zampilla e si mesce orribilmente alla linfa del mollusco. La bestia si sovrappone a voi con mille bocche infami, l'uomo s'amalgama all'idra. Diventa con essa una cosa sola, questo incubo vi è di sopra, la tigre può soltanto divorarvi, il polpo vi risucchia, vi trae a sé e in sé. Illegati, invischiati, impotenti, vi sentite svuotare a poco in questo sacco spaventoso che è un mostro. Al di là del terribile essere mangiati vivi, c'è l'indescrivibile essere bevuti vivi. Beh, sì. Questo Hugo? Questo era Hugo che, come Verne, marcia spaventosamente sui terrori e sulle paure della popolazione, mentre Melville non ci pensa nemmeno una volta a fare questa cosa, si attiene molto più ai fatti, si attiene molto più a quello che riesce a vedere, mentre Verne e Hugo si divertono come pazzi a terrorizzare. Poi si va avanti nella tutta la cultura popolare fino ai casi più strani, quali per esempio quella del polpo Paul, che è il polpo che è... Ho capito, è quello dei mondiali. Quello no. Del mondiale, bravo. Nei mondiali di calcio del 2010 a un certo punto c'era sto polpo che ha azzeccato, cioè c'era due piccoli contenitori con anche lì il cibo dentro, il polpo però con la bandierina delle squadre che si affrontavano. Il polpo è andato sempre sulla bandierina giusta, vincente, della squadra che poi sempre vinto, sempre. Cioè, anche fino alla fine. Anche la finale. Tanto che fino ha fatto Paul? Paul è morto. No, ci hanno fatto la scena per i vincitori. Sì, no. Tra l'altro Zapatero era rimasto, premier che ricorderemo tutti, è rimasto folgorato da questa cosa, anche perché poi aveva vinto i mondiali. E quindi mascotte, nuovo simbolo. Mascotte assolutamente del mondiale, ma soprattutto poi appunto premier spagnolo che esalta questo il polpo come l'animale intelligente, mentre Ahmadinejad invece a quel tempo presidente dell'Iran lo segnò come la fine del dominio dell'Occidente. Il polpo. Il fatto che Zapatero e che tutto il mondo stesse dietro a un polpo e dove andava. Il polpo in realtà andava a caso, però questo fa capire in realtà quanto... Quanto a caso vengono vinti i mondiali? Quanto a caso vengono vinti i mondiali, ma anche quanto a caso un po' vada la nostra mente. A seconda dei secoli leggiamo la natura un po' in modo abbastanza particolare. Ci sono un sacco di studi che affrontano però questo animale sotto punto di vista scientifico, ma non soltanto biologico e zoologico, ma anche sotto il punto di vista soprattutto del cognitivismo e dello studio del linguaggio. Uno su tutti, Peter Godfrey Smith. Altrimenti edito da Delphi. Che cos'è? È proprio di questo, di tutto ciò che stiamo dicendo adesso. C'è solo su polpi? No, sì, sulla mente del polpo. Lui sostiene che se c'è una qualcosa che possa assomigliare lontanamente a un alieno e sulla faccia della Terra è proprio il polpo. Bello, viva il polpo. Bella, buono. Poi sì, se volete una ricettina, se poi fai ripartire con il polpo in umido, cottura mezz'ora dall'ebollizione e poi Davvero lo vuoi sapere? Certo, a questo punto. Allora, prendi, lo prendi, lo infili in una pentola con l'acqua, che deve essere fredda l'acqua. Quindi è un polpo pulito, già così. Ci metti un po' di odori, quindi ci metti una costa di sedano, una carota, una cipolla. E poi lo metti a cuocere sul fuoco. Una volta che ha iniziato a bollire, ti aspetti una mezz'oretta. E poi, dopo una mezz'ora, lo spengi e attenzione, lo fai freddare nell'acqua. Quindi aspetti che si sia raffrescata l'acqua. A quel punto puoi prendere il polpo, lo tiri fuori, lo scoli e lo tagli a pezzettini. Tutti quei tuoi tentacolini, ma tanto sensibili. Da accompagnare con patate lesse. Da accompagnare, buono, secondo me, con patate lesse. Ci puoi fare un battuto di carota, cipolla, una cipolla. E cosa marinata. Ci beviamo insieme? E insieme ci puoi bere una bella birra chiara o un vinello bianco. A tua scelta. Vista mare, possibilmente. Vista mare, possibilmente. E via con la bella vita. Ma posso fare un intervento? Su questo, per dire, leggevo che è molto poco consigliabile in realtà, pur essendo così buoni, mangiare il polpo è una delle cose più lontane dall'ecologismo che ci siamo affacciati. Nel senso che gli allevamenti, cioè il polpo c'ha questa particolarità che tu gli dici: ah, vieni polpetto, ti allevo. Ti do da mangiare, col cazzo, gli devi dare roba viva al polpo, non mangia roba morta. Quindi tu, per allevare dei polpi che comunque mangiano, perché devono diventare grossi, devi allevare altre specie ittiche o pescarle, e quindi allevare mangime per altri pesci per poi farti questi tre tentacolini all'olio. Buoni, figuriamoci. Però ecco, diciamo che gli allevamenti sono in difficoltà, sono in difficoltà perché la pesca diretta ha delle limitazioni molto forti, perché è una pesca al fondale. È una pesca al fondale e non si può pescare in determinati periodi dell'anno perché i polpi sono ancora troppo piccoli. Quindi c'è l'allevamento, ma che non funziona come l'allevamento intensivo tendenzialmente fa. E quindi questo è un po'. E quindi niente, non mangiate polpo, no, non seguite la ricetta. Se lo fate, sentitevi in colpa. E come detto sempre. Con questo, noi stiamo continuando a parlare, aspettando la Virgine. Vabbè, noi andiamo con la sigletta di chiusura, canzoncina, e poi speriamo che apparirà la nostra cinefila in polvere. Dopotutto, domani. Una bella bestia. Young bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. Live fast, die young. Bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up. If I blow you with a bang. Suki, suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging on the radio, yeah, back it, yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing, had a handle on it. My life, but I broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going up to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swag. boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Siamo tornati, abbiamo fatto anche un cambio di ospite. Poi ospite non è, abbiamo una pigliatura rossa che è arrivata qui giusto in tempo. Ma che gioia, però abbiamo una flash news, da Palazzo Vecchio. È abbastanza sconvolgente, perché sembra che in testa ci sia, con il 47, niente proprio di meno che Vatte Mustafà. Vatte Mustafà sta vincendo le elezioni, ragazzi. Eh sì, ci siamo. Invece alle elezioni per il Parlamento Europeo pare abbia vinto in Italia il movimento quello non è credibile animalista internazionale. Oh, vero. Allora è una buona notizia. Ma sono buoni gli animalisti, eh? Ma quindi, cioè, stai parlando animalisti e verdi in Italia hanno vinto tutto. Sì. Davvero? Tutto. Sì, siamo diventati super. Perché sono stati in un time war per tre giorni, quindi non c'è niente. Allora, non è vero. Sta vincendo Vatte a Firenze, ha già dichiarato che rimetterai la Papavetri. Io pensavo era vero, non mi dovete dire la cosa così, non è bello. Così puoi rifare l'ordinanza contro la Papavetri. Perché Cioni, meno cioni, più cioni. E questo è il sempre cioni. Bene. Meno cioni. No, fa più cioni. Esatto. Ciao, cara. Ciao. E ovviamente stiamo blaterando noi. Sì, stiamo blaterando. Devo dire che questa formazione di FAP, vabbè. Siamo al top. Scusate per chi non c'è, però. Spiezzi. Va bene, allora, come va? Abbastanza bene, buono. Abbiamo parlato dell'aeroporto. Hai visto l'aeroporto? Che è successo? Abbiamo appena da poco sentito Sebastiano. Che quei rari secondi in cui sono uscita a collegarmi alla realtà in questi tre giorni, ho letto questa notizia. Poi io vivo vicino, quindi. E perché eri fuori dal mondo? Fuori dal mondo perché ero su questo meraviglioso pianeta così. Strano e diverso della nuova occupazione. C'è una nuova occupazione in città, ragazzi. Oh, ma che bello! Ragazze, in culo a Salvini. Questo è proprio in culo a Salvini. Cioè, proprio fuori di metafora. Gli piacerebbe. Va bene, allora, questa nuova occupazione da tre giorni ed è stata così. È partita come una TAZ. Ma si chiamava Trans. E va bene, insomma, sicuramente avrete letto voi giovani avete i social media. Avrete letto, io sto cercando di recuperare al volo mentre parlo, così facendo altre 50 cose con le mani, il volantino così di presentazione del Trans, che è stato in giro già da un po' sui muri e così e sulle varie distro a Firenze, quindi ne avrete sicuramente un po' sentito parlare. Ma diciamo che se volete saperne di più, adesso ve lo illustro. Questa nuova occupazione, diciamo che era partita appunto come un'occupazione temporanea, in realtà così l'assemblea dell'occupazione ha deciso di proseguire, quindi la giornata di oggi vede il primo giorno effettivo di occupazione oltre i tre giorni che erano stati dati all'inizio. Molto bene. E si spera e ci si augura che l'esperienza possa proseguire, ma anche se così non fosse, succederà comunque altro. Non, diciamo che le individualità all'interno di questa sono molto, vedo molto decise, combattive, anche perché finalmente, insomma, si sentono di aver trovato dopo tanti sforzi, uno spazio insomma da transitare e da occupare, che li rappresenta pienamente e che è tutto all'insegna dell'inclusività e dell'antisessismo, dell'antiomofobia, del transfemminismo. Spazio situato, si può dire dove, a questo sì, punto? Sì, a questo punto all'isolotto, sì. Praticamente è difficile da spiegare, ma è molto facile da trovare in realtà. Diciamo sulla riva nord? Allora, guardi, mettendosi con le spalle al centro, non la riva delle Cascine, l'altra riva, riva okay, sinistra. E là c'è passerella, cioè poi dal ponte all'Indiano, via dell'isolotto si chiama. È praticamente quello che viene chiamato l'Arcing Grosso, cioè quando si fa l'isolotto si prosegue, si può o andare a sinistra verso l'imbocco del Ponte Legnano o rimanere su questa via un po' sterrata che va a lungo fiume, sì. Ok? Alla fine c'è una sbarra, si lascia la macchina lì, altrimenti è ancora più facile secondo me da trovare dal lato di là, dal lato Piagge, dal lato Indiano, il vecchio Indiano occupato, quello che è alla fine delle Cascine, si arriva lì dove c'è il famoso locale Manduca, si mette la macchina lì, si fa la passerella del Ponte all'Indiano a piedi, la pedonale, un bici, un motorino, si passa all'isolotto dalla passerella. Appena scesi dalla passerella si va leggermente a destra, la casa è subito sulla sinistra, casolare, si vede subito molto, molto grande. Bella storia. Quindi ecco, stavo ricercando un attimo. Attenzione. Panico dell'aggio. Stavo ricercando dei testi, niente. E quindi niente, l'occupazione sta proseguendo e i compagni e le compagne e tutto quello che c'è nel mezzo sono in questo momento appunto stabili nel posto e chiedono a tutti la solidarietà ovviamente e la presenza, perché no, stanno volando pizze comunque nel frattempo, la tana del Wombat veramente sbucano cose. Bene, trans, zona autonoma in transizione, come frasce trans, soggettività non binarie, femministe, transfemministe in guerra con l'eteropatriarcato, sentiamo l'esigenza di costruirci spazi liberi da sessismo e homo trans lellofobia, costruire uno spazio dove poter agire liberamente senza nessuno che lucri sui nostri culi, dove il divertimento sia libero e gratuito, dove la sicurezza venga costruita tra noi stessi. Allora, viva. Ci sono state diverse già attività, happening, c'è una mostra, sono stati 3 concerti molto belli ieri sera, grazie a tutti i ragazzi e le ragazze e le individualità nel mezzo che si sono sbattute, le Hen, Ciora, Sobist, quindi i compagni di Pisa, grazie, grazissime a chi è venuto dalle altre città. Vorrei nominarle tutte, ma davvero compagne di Roma, di Bologna. E fanculo a chi non è venuto. Ma sì, vorrei capire dove era la gente. Però va bene, insomma, si sa, è così. Il momento è duro per tutti e tutti hanno le proprie cose da fare. Però noi ci accontentiamo della solidarietà, ci accontentiamo che venite a fare un passaggio, a vedere, a transvedere. E ci sono state appunto varie attività in questi giorni che si sono concluse appunto con 3 concerti ieri sera, ma in realtà non si sono concluse perché l'esperienza sta proseguendo e ci saranno tante altre attività anche nei prossimi giorni. Chiaramente tutto questo sta andando di pari passo alla pulizia del posto, alla messa in sicurezza del posto. Grazie, grazissime a tutte le fantastiche compagne che si sono spese davvero per trapanare, scassinare, rimettere, pulire e aprire, richiudere, insomma, grazie veramente. È stato, devo dire, in tutte le difficoltà che ci sono state molte, prima di tutto il tempo che non ci ha aiutato molto, è piovuto, insomma. Sbirri? Sbirri è andata così. Passati, poi non voglio dare troppe info, che chi se ne frega. Per ora passati, vediamo, sai, forse le elezioni così bloccavano un po', aiutavano. C'è stato un corteo comunque sabato mattina a Firenze, quindi è chiaro che insomma era tutto un po' in confusione probabilmente anche. Credo che stiano aspettando di capire se effettivamente l'occupazione prosegue. Credo che forse aspettassero di vedere un po' che insomma ce ne andassimo per capire un attimo. Non solo non ce ne andiamo, ma se ci sgomberano andiamo da un'altra parte. non lo so, vediamo. La lotta direi che per ora è salda. Dovrete avere a che fare con Watt, ricordatelo. Come? Dovrete a che fare con Mustafa Watt con quel cuore qua di Darione. No, Darione, boh, ormai è finito. È finito? Ha vinto Watt. Quindi Grippo è tipo tipo in una vasca di champagne, mangia le fragole, festeggia, tipo è a Las Vegas. Dove sei, Grippo? Va bene, ti vogliamo bene. Comunque, vi volevo leggere il comunicato che è appena uscito oggi. È ancora un po' in costruzione, però così per chiudere questa parentesi ve lo leggo. Allora, siamo atterrate su Urania, sentivamo il bisogno di creare uno spazio per ribadire la nostra esistenza, praticare in libertà i nostri desideri, togliere un piccolo ma enorme spazio allo Stato, al patriarcato e all'eterosessismo. Urania è la dea delle froce, lesbiche, unicorne, zoccole infette, perverse e di tutte quelle individualità libere dall'eterosessualità obbligatoria. Urania è il desiderio che dall'immaginario trascende al reale. Urania è uno spazio in transizione dove si confondono i nostri corpi, dove la natura che ci ha sempre costretto a reprimere le nostre sperimentazioni di transizione può essere cambiata. Urania è un osare, osare di esistere senza chiedere il permesso. Siamo una gruppa di froce lesbiche, sex workers, transfemministe, non binari, siamo ribelli e recuperabili. Abbiamo deciso di dimostrare di non essere solo vittime della violenza di genere, ma capaci anche di reagire e di rispondere al mondo, a questo mondo eterosessista e patriarcale. Vogliamo costruire una spazio sicura per tutte noi, dove siamo noi a creare la sicurezza e non un'autorità. I nostri corpi sono strumenti potentissimi, capaci di costruire un esistente eterodissidente, froce, lesbica, transfemminista, senza padroni nei confini. Urania è una zona liberata, rabbiosa e gioiosa, dove costruire totale libertà di passione e desideri. Urania è l'isola che ora c'è, è perversione e depravazione. Urania è la nostra pratica quotidiana di resistenza non binaria, transfemminista, femminista e frocia. Urania è una terra storta, senza confini di generi e nazioni. Ci siamo ripresi la nostra spazio e ora vogliamo festeggiare, ma soprattutto resistere. Venite a godere e sognare con noi, Assemblea Transfemminista Queer di Urania Occupata, via dello Scalo 2, incrocio via dell'Isolotto, Firenze. Evviva! Evviva! Ormai la mia voce è, cioè, è passata proprio al lato scuro della forza e non c'è assolutamente più. Tipo, tra poco mi tocca mettermi la cosa tipo Darth Vader. Allora io ti alzo la base. Ti faccio più fatica. Voglio bene, amico. E, bene, Urania quindi. Urania. Non ho capito, bellissimo nome. Sì. Dai. E va bene, andiamo avanti. Andiamo con no. Con sì. cosa andiamo avanti? Sì. Andiamo con la rubrichetta. Adesso qualcosa rubrichetta completamente diverso. Via. Adesso con i nostri potenti mezzi tecnici. Allora cambieremo scenografia. Allora, no, vabbè, ho perso tutti gli appunti. Che dite? Ecco, scenografia nuova. Scenografia nuova. Vita nuova. Più international. Yes. Sounds. California. No. Comunque una cosa che fosse... Chi è? Vado. Vai, vai, sei qua. Vai. C'ho da recuperare un attimo gli appunti. Ne parliamo. No, una cosa che potremmo dire è che nonostante abbia vinto Mustafa Batte, probabilmente ci toccherà continuare a fare la nardellata per i prossimi. Probabilmente sì. Dio merda. Questa è la mamma di Olmo. Attenzione, che la mamma di Olmo. Scusi signora, scusi. Scusi signora, è tanto bravo ragazzo, guarda, non lo dice mai le parole. No, infatti non lo dice mai. Però è già successo, già siamo stati rimproverati per questo. Però con regalo. Però esatto, ci ha fatto anche un regalo. Quindi però sì, col regalo, chiedendo per favore di smetterla di turpiloquiare. Senti, io non lo faccio. Quindi noi in scusi, diretta signora, direi che la ringraziamo. Grazie, fino a ora. Grazie anche per aver prodotto comunque un figlio così. Comunque si stava. Certo, cioè io Omlo. La genere femminile vorrei ringraziare. E la la maschile. Quando ce l'ho, ce l'ho. Allora, la genere maschile, anche la genere maschile. Scusami, questo è il regalo della mamma di Olmo. È praticamente una Omlo. Una scatola argentata, va bene, di dimensioni vuota attualmente, perché dentro c'erano un paio di cuffie. E sopra c'è scritto: per Radio Wombat, purché non tiriate troppo di madonne. Che mamma di Olmo. Scusi, noi siamo fiorentini. È che quella fiorentinità che ci frega. Non lo facciamo apposta. Anzi, latte e bestemmie, veramente, fin da piccoli. Sì, è la vita che ci ha fatto. Comunque così. Grazie mamma di Olmo. Certo, sempre grazie. Ti ascolteremo sicuramente. Ti ascolteremo sulla sua radio, perché anche i suoi consigli. Vero? Okay. No, ok. No, se vuole venire allora, qua. Scusate, ci sono. Oggi veramente poche idee e confuse. Ma sono buone le confuse, quelle sono buone. Ci sono. Allora, Lago? T'a posto? Qui siamo sì. A posto. No, sono io il disagio. Però ho dormito 3 ore e 2 anni. Scusate. Bene. Allora, any moment, please. Any moment. Cinema in polvere. Buono, cinema in polvere. Cinema in polvere da boh, come diceva Ceccherini. Insomma. E siateci. L'aspirina si prende anche, si può prendere anche con anche a stomaco vuoto. No. No. Va bene, non importa, volevo fare. Va bene, ci siamo. No, sennò alzo la base. Dai, Mario. Volevo mettere in fretta, io volevo approfittarne per ricordare un po' di cosette, un po' di, che ne so, le solite cose, 1359, Wombat.1blogs.org. Esatto, se qualcuno di voi ha provato a scriverci alla suddetta MD Posta, scusateci per le... perché non abbiamo risposto. Perché non risposto, ma perché eravamo un po' sfiduciati. Sì, invece è vero, non arriviamo mai a quello, perché siamo veramente le persone disgustose alla fine, perché diciamo scriveteci e poi non rispondiamo. Invece ci hanno scritto, ci hanno fatto anche complimenti, periodicamente ce li fanno. Siamo molto contenti di riceverli e complimenti per la trasmissione. E no, complimenti per la radio, in per generale, la radio, tante cose, tante per cose la belle. Rubrica di cinema. Voi continuate a scriverci che noi continueremo a non rispondere. No, non è vero. Anzi, guarda, l'apro subito la mail. Ma c'hai le prove? Secondo me sono mail che vi mandate voi da soli, tipo forse falsi. Sì, è vero. Beh, sì. Ci ho pensato. Io e la Maria lo facciamo. Ah, allora è quello. Allora perché sono complimenti a voi, non è che a noi. Allora è quello. Bene. Allora ci sono quasi, Va bene. Bene, bene, ci sono. Ma no, è una domanda che non farò più. No, falla. No, dai. Ma la rassegna eventi la facciamo ancora noi? Abbiamo completamente boscato. Vedi, era una domanda. Boscare la vita, la nuova rassegna eventi è boscare la vita. Giusto, quindi ricordiamo adesso, e comunque ripetiamo un'altra volta perché si è sintonizzato ora, è da giovedì a domenica. Hack meeting. È vero, Next Emerson. Posto per dormire, posto per mangiare, posto per vedere un sacco di cose interessanti, posto per chiacchierare, LAN party. Una mostra al NEMA, bellissima. Sì. Bellissima. In art. Andateci. Ok. Con guide sopraffine. Sì, le guide soprattutto valgono la pena. Bene. Se volete ce la posso fare. Ci siamo. Allora, innanzitutto vorrei aprire dicendo Can. Si è appena conclusa, credo, sta finendo sabato, la kermesse di Cannes, che come ogni anno, ovvero, ci ha regalato grandi gioie e grandissimi, vabbè, cosa? Dei red carpet, direi indecorosi, indecenti, cioè quest'anno particolarmente rano e di modelle, gente come Chiara Ferragni, che cazzo c'entra, scusa mamma di Olmo, che cazzo c'entra Chiara Ferragni sul red carpet con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, perché? Maledetta. Io scusate, c'ho un po' la carogna su queste cose, perché cosa c'entra Chiara Ferragni? Cioè non è un'attrice, non c'entra nulla col cinema, cioè perché devi stare accanto a Brad Pitt e Leonardo DiCaprio? Soprattutto perché non ci sono io, cioè, perché questa è la cosa che poi mi torna meno. Money makes the world go round, testimonial tipo. Sì, ma cosa c'entra? Niente, però gli porterà visualization. Ma cioè, Tarantino ha bisogno di Chiara Ferragni? No, è ridotto così. Al Festival di Cannes, penso. Va bene, dai. Non lo so, mi metto con le polemiche. Però. No. Un po' l'invidia di tutte queste donne incredibili sul red carpet, perché uno si sente, vabbè, si vuole buttare veramente dal ponte. Ma vabbè. Cannes, sì, dall'indiano, che già siamo lì. Va bene. Comunque a Cannes ha aperto il film di Jarmusch, che vediamo un po' come sarà. Lei, Drago, vuole dire quello niente? Quello degli zombie? Quello di zombie. Quello con Iggy Pop che fa lo zombie. Ah, vabbè. Ok, venduto, andiamo a vederlo adesso. Quindi quando adesso posso dire una notizia di cinema? Sono rimasto sconvolto. Beh, lei dire. Aladdin, lo so, signori. 3 giorni non Aladdin ci dorme la appena uscito. Appena uscito il remake di Aladdin, versione con attori della Disney. Però della Disney. Sì, esatto. Però c'è Will Smith che fa il genio della lampada, marcissimo. Sì, sì. E poi ho visto il film proprio. No, ho visto un pezzo. Con i miei metodi un po' strani. Sì, e no, il regista, ci sono rimasto male, l'ho visto lì. Dillo. Guy Ritchie, quello di Rock and Roll, The Snatch. Di Sherlock Holmes 1 e 2, che Cristo, perché non finisce e fa il 3? Che perché quello, deve fare Aladdin. Quello che ha fatto i film, no? Tutti i super fighi, super velocizzati. Poi famoso metodo Guy Ritchie, tra l'altro è diventato uno stile molto. Che stava con Madonna, tipo. Sposato. C'è un figlio con Madonna. Ma ne sapeva veramente tante. Anche i gossip sapeva bene. Cioè, siamo coppia. Non hai capito, questo niente. E ha fatto Aladdin. anch'io. Cioè, stavo preso come regista. Non ci ha dormito la notte, mi ha mandato un messaggio. Non ci ha dormito. Cioè, stava male. Perché questa cosa? No, perché ha fatto Aladdin, ma non Aladdin alla Guy Ricci. Tipo. Ha fatto Aladdin. Ha fatto Aladdin della Disney. Dumbo, ok. No, no, no, ma peggio. Ha fatto Aladdin con i New. Vabbè, Big Money forse. Però la domanda è: Guy Ricci, no? Che io adoro. Adoro. Veramente. Perché è di un truzzo, però che mi va nel ti voglio bene. Comunque The Snatch, comunque Rock and Roll, comunque amico, ti voglio bene, One of Us. Ma perché? Vabbè. Devi fare. Prima ha fatto Re Artù l'anno scorso. Che già. Che marciata. Boh. Però c'era l'attore di Sons of Anarchy, che comunque ho un problema. Vabbè, lasciamo fare. Va bene. E. Ok, e io quasi l'avevo capito. E poi ho visto il trailer di Aladdin. E ho detto, ma perché? No, ma perché? Cioè, la domanda è veramente. Io lo so. So soldi. So soldi. Forse si deve pagare il divorzio con Madonna e comunque gli sta costando un botto. Ci vedo, vai. E poi Will Smith ha spinto a bestia perché voleva fare il genio da anni. Perché comunque nel film di Aladdin il genio lo faceva Robin Williams a voce. Non gli andava giù. E non gli andava giù. E lui lo voleva fare. Però io ho visto il trailer e posso dire una cosa. Jafar. Come fai a fare Jafar che non è cattivo? Cioè hai non dei problemi veri. Cioè tipo non fa paura per niente nel trailer. Magari è perché vogliono che tu ti simpatizzi un po' di più con Jafar, che giustamente c'è, cioè uno. È la minoranza etnica. No, non è quello, è che uno che è stato lì per 20 anni dietro a questo re, questo. Questa grotta. Marajà, questo Marajà che governa tutto del cazzo idiota. Dillo. E lui è stato lì dietro a governare tutto. Apologia di Jafar, attenzione. Arriva attenzione a lui, arriva il primo stronzo, poveraccio, col genio e fa così. E lo buttano fuori, uccidono la cosa, no? No, c'è proprio di c'è viva Jafar. C'è tipo la fronda contro Jafar. Beh, cioè, si era impegnato comunque. Sì, senso, no, Jafar 20 anni lì comunque, sotto. Comunque col pappagallo sulla spalla da 10 anni. Che non è bello. Comunque i pappagalli non sono simpatici, sono persone impegnative comunque. E quindi, nel senso, c'è viva Jafar. Ok. Ti voglio troppo bene. Avanti. Allora, viva Jafar. Però, ovviamente non le andremo a vedere questa, perché dopo averlo infamato così. No, Ciccio, adesso andiamo. No, perché, no, per forza. No. In lingua originale, però. Andiamo a odiarlo. Andiamo a odiarlo insieme al cinema. Sì, va bene. A me. Ok. Chissà se Will Smith ci ha infilato qualche non ci va giusto, messaggio subliminale di Scientology. Sicuro. Scientology. Super Scientology. Io facevo un film. Secondo me lui l'ha fatto apposta. Un film di fantascienza. Ma come si chiamava? Con suo figlio. Sì, quello di Shyamalan. Che praticamente era tutto una metafora di tutte le regole, tutte le credenze di Scientology. Ma così? Così. Merda. C'erano, il mondo era finito, sì, disabitato. Cioè, praticamente lui e lui e suo figlio tornano sul pianeta Terra a cercare di un po' ricordare. Suo figlio quando era un bambino o suo figlio quando era come un truzzo? Adolescente, un po' adolescente. Volevo dire che il figlio adesso è. Il figlio e la figlia sono tipo i più belli del mondo. I figli di Will Smith. Sì? Non so se l'avete visti, ma tipo sono due esseri. Tipo, secondo me l'hanno fatti in provetta, Scientology. Sono tipo. Va bene. Ok, tutta l'invidia per i figli di Will Smith. Andando avanti, dicevamo Cinema in Polvere. Che ci regala oggi? Bene. Cinema Teatro della Compagnia, come al solito, ci regala grandi gioie. Perché stasera alle ore. 21 Tarantino Unchained prosegue la saga di Tarantino al cinema Teatro della Compagnia con Planet Terror. Beh. Che in realtà però hanno sbagliato, perché Planet Terror è il pezzo di Rodriguez del film di Tarantino Grindhouse. Però in realtà forse stanno dimostrando lungimiranza, perché quantomeno gusto, perché la parte di Rodriguez è molto più bella di quella di Tarantino. Molto più bella. Che Grindhouse non si poteva vedere, secondo me. Vabbè, era un po' strano. No, secondo me non si poteva vedere. Scusami. Cioè ho un problema, però. Sono andata via nel pezzo di Tarantino. Sono rientrata in quello di Rodriguez, che io amo molto. Per cui molto bene. Non sto a ridirvi la storia, perché dai, veramente. Avanti. Poi abbiamo domani. Interessante, domani programmazione c'è un film che si chiama The Innocence of Florence, versione in italiano, un documentario credo di Davide Battistella del 2018. Quando due restauratrici a Firenze iniziano a lavorare su un dipinto del 400, traprendono un viaggio per scoprire la storia di bambini dimenticati e di donne che li hanno salvati. In realtà non è un documentario, sbagliato, perché c'è la diegesi, vabbè. È l'anno 1410, si manifesta un grosso problema sociale a Firenze, i bambini vengono abbandonati e muoiono innumerevoli. Per risolvere il problema gli umanisti fiorentini cittadini si organizzano e costruiscono un ospizio per bambini e ragazze madri. Per festeggiare il completamento del nuovo fabbricato nel 1446 commissionano un quadro da usare come manifesto, il logo luogo standard per il nuovo istituto. Credo che sia l'istituto dell'innocenza. Esattamente. Sì. Quindi molto bella versione ufficiale, alle ore 15 e di nuovo niente, alle ore 15, programmazione di nuovo però nei giorni dopo. Chiaramente vi invito ad andare sempre a vedere il programma Cinema Teatro La Compagnia, perché è molto vario, abbastanza complicato, www.cinemalacompagnia.it. A proseguire sempre domani martedì abbiamo questo Beautiful Things di Giorgio Ferrero, Le vite di quattro uomini che inconsapevolmente sono alla base della sequenza della creazione, trasporto e commercializzazione degli oggetti che alimentano la bulimia del nostro stile di vita. Quindi un documentario sul cibo, sul rapporto col cibo. E gli oggetti in cui pensiamo di aver bisogno ogni giorno iniziano a finiscono il loro viaggio all'interno di luoghi industriali, scientifici isolati e spettrali. Questi uomini sono monaci all'interno di templi di acciaio e cemento e ripetono ogni giorno nel silenzio e la solitudine la stessa liturgia meccanica, convivendo con i propri fantasmi. Non è sul cibo, scusate, oggi non ce la posso fare, è sugli oggetti. Bene, Beautiful Things, mi hanno detto che è bello, non l'ho visto. Italia-Svizzera, USA, 95 minuti, alle 19 di domani e in programmazione di nuovo nei giorni successivi. Alle 17 per tutti gli sportivi domani c'è un documentario su John McEnroe, L'impero della perfezione. Il mitico campione di tennis John McEnroe, ex ragazzo prodigio e successivamente noto alle cronache non solo per il talento ma anche per il caratteraggio, è un documentario presentato al Festival dei Popoli, Berninale, Cinéma du Real, che vanta materiali di repertorio ed elementi di psicologia e di teoria del cinema, accompagnati dalla voce di Mathieu Amalric con la promessa godardiana, Le Film en Temps, pas le sport. Cioè, diciamo, non è veramente un film sullo sport, è un film sul cinema. Comunque parla di John McEnroe, quindi lo sport c'entra. Bene, per gli amanti del tennis, ma non solo. Proseguendo, mercoledì di nuovo abbiamo una rubrica flashback, scusate il ritardo, no? La rubrica che fanno, che rimettono in programmazione film vecchi alle ore 16. Non preoccupare. Sì, ogni volta la fa, poverino. Vedete però, perché sennò mi rimane. Hai ragione, scusa. Allora, Oro Verde c'era una volta in Colombia, le origini del narcotraffico colombiano attraverso la storia epica di una famiglia indigena Wayuu, un clan familiare con capo una donna che si trova coinvolta nel boom del successo del commercio di marijuana ai giovani americani negli anni 70, quando avidità, passione e onore si scontrano, si scatena una guerra fratricida che metterà in gioco le loro vite, la loro cultura e le loro ancestrali tradizioni. Molto bello questo, l'ho visto in un festival tempo fa, è veramente bello da vedere. Ore 16, c'era una volta in Colombia, di Ciro Guerra e Cristina Gallego, Colombia 2019, 125 minuti di durata. Nuova ripetizione sempre mercoledì alle 18.30 e alle 21, quindi avete tutto mercoledì per vederlo, non accampiamo scuse per favore. Andiamo avanti, giovedì 30, di nuovo John McEnroe e Beautiful Things, insomma, in ripetizione. Venerdì invece, quindi venerdì 31, Beautiful Things di nuovo alle 15, Beautiful Things alle 19.30, alle 19.05 L'ora di carta, quaderno del cinema reale, e presentazione del volume monografico Il paradiso terrestre del quaderno del cinema reale, la presenza dei curatori Francesco Andreotti, Livia Giunti, vabbè. Evento speciale alla presenza della regista alle 21 invece, Il pianeta azzurro, un anno di vita sul pianeta Terra, le quattro stagioni si susseguono l'una all'altra nella loro alternanza di manifestazioni, ma attraverso il lavoro di montaggio l'anno è condensato in una sola giornata, una sinfonia sonora e visiva che incanta lo spettatore grazie all'invenzione di uno sguardo d'amore così personale e corale allo stesso tempo rivolto a madre natura, girato in 35 mm, molto bello. Quasi 40 anni fa dallo stesso Piavoli l'opera torna sul grande schermo al pubblico fiorentino in versione ridigitalizzata. Molto bello questo, ore 21 alla presenza del regista, Il pianeta azzurro, sempre Cinema Teatro della Compagnia stiamo parlando. Sabato e domenica buona, fanno festa, è chiuso, c'è un evento privato credo, perché c'è la meeting probabile. Sì, la Mari gli ha fatto chiudere tutto, comunque ha questo potere. Odeon Firenze invece continua sempre all'Odeon la programmazione in lingua originale, quindi Original Sound in programmazione dal 13 maggio fino a luglio. C'è il film su Elton John, Rocketman, un nuovo biopic un po' tipo quello sui Queen, ecco. Hanno usato che Queen con le royalties del film Queen, Bohemian Rhapsody, sono diventati i più ricchi della regina d'Inghilterra. Ottimo. Con le royalties, che prende comunque le tasse dalla gente, quindi no. Sì, tanto gli mancavano anche i Queen. Magari Elton John voleva aumentare un po'. Certo, il suo... comunque c'è da provare. Anche lui, comunque, immagino che sia comunque tutti i vestiti, le piume distrutte, c'è quella roba costa, non è che... Poi te lo metti una volta, non è che te lo rimetti. Capito, no? Perché poi non lo puoi stirare, le paillette. Non... difficile. Chiaro. Molto bene. Avanti. Per gli eventi speciali da giugno 17, ora ve lo dico prima, ma ve lo ridirò. Da giugno 17 a luglio 21, Being Leonardo. Cioè essere Leonardo, legato a tutti gli eventi su Leonardo che ci sono andare via. Molto bene. Original Sound, sempre dal 23 maggio al... Coglioni. Che coglioni Leonardo. Cioè bello, bello. No, però vabbè. Dice bene la Meloni. Ha detto, a un certo punto la Meloni ha detto: se fossimo un paese serio, tutti i giorni, tutto il giorno Leonardo, parleremo di Leonardo, certo, da Vinci. Sì, non dai, perché no? Ragazzi, però no, vaffanculo Leonardo, che no, per me, cioè, figuriamoci, anzi però lui tutti. Non avrebbe mai voluto tutto questo, un martellamento di palle, vabbè. Bene, è vero, verissimo. Quindi invece dal 23 al 28 in lingua originale, oggi che giorno è, scusate, però che sto dicendo, non lo sapere. 27. Ah, quindi fino a domani il nuovo film di Almodóvar in lingua originale, in concorso al Festival di Cannes, campione di incassi in Spagna, racconta una storia di ricongiungimenti. Salvador Mayo Banderas, un regista cinematografico ormai sul viale del tramonto, alcuni sono fisici ricongiungimenti, altri ricordati dalla sua infanzia negli anni 60, quando emigrò con i genitori a Paterna. Ah, la madre interpretata da Penelope Cruz. E dai, è tanto per cambiare. Dai, Banderas e Penelope Cruz. E vabbè, e comunque ci hanno da pagarsi la pensione anche loro. Anche loro. Banderas, tra l'altro, mi sa che ha vinto il premio dell'attore a Cannes. A Cannes, ci stanno, lo seguiti. Sì, perché mi sono sfavata per le modelle da Ferragni e non ho voluto sapere. Ha vinto il miglior attore. Bene, grande. Un comune situato nella provincia di Valencia. Cioè, a Valencia c'è un comune che si chiama Paterna. Bene. Vabbè. Vabbè, anche vicino a Vaglia c'è un comune, c'è un paese che si chiama Paterno. Dove c'è la discarica, no? Però non c'è, dove c'è la discarica. Però non c'è Penelope Cruz. Non c'è. Penso di no, posso provare a informarmi. Magari vai a dare un occhiata. Vai a dare un'occhiata lì. Che comunque anche alla sua età la cava. Vabbè, tutto sommato. La sorella ancora meglio, non se l'avete mai vista, Monica Cruz. Va bene, avanti. Un comune situato nella... Il primo desiderio, il suo primo amore da adulto nella Madrid degli anni Ottanta, il dolore della rottura di quest'amore, quando era ancora vivo e palpitante, la scrittura come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile, la precoce scoperta del cinema e il senso del vuoto, l'incommissurabile vuoto causato dall'impossibilità di continuare a girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di separarla dalla propria vita e dalle passioni che danno significato alla speranza. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgenza e necessità di narrarlo, e in quel bisogno trova anche la sua salvezza. Dolor y Gloria, versione originale spagnolo con sottotitolo in italiano. Quindi vi resta martedì 28 maggio 18:30 e buona e basta, no. E basta, e domani in striking. E ora arriviamo a quello a cui volevo arrivare. Ho scoperto questo filmino nuovo incredibile. Cosa? Andiamo a vederlo, perché credo che a lei, a signor Drago, piacerà molto. Non lo so, pensate le Drago, dica. Non Drago. Drago. Vengo di Cina. Ha detto Drago. Va bene, mutiamo. Scusate, sta qui a mutiamo. Sì, già io vi ho sull'utilità. Ma comunque si sta montando la testa. Cioè adesso sta qui a farmi le pulci. Il punzecchiatore. Cos'è? È andato la zanzara. Le dite qualcosa o? Le diciamo dopo. Vabbè. No, in diretta. Vabbè, l'ho muto, ci vuole, facile qua. Non muti, grazie. Sparito. Censura, ciao. Censura. Va bene, andando avanti. Sei tornato. Sono tornato. Ti ho tornato. Cinema che Spazio 1. Allora, al Cinema Spazio 1 in programmazione da lunedì 27.05 a mercoledì 29.05, lunedì ore 16.30, 20 e in altri orari, guardateveli sul sito, c'è Tu casa, la notte che ho nuotato. Che cos'è? È un film, non è questo quello che volevo dirle, però quell'altro è... eravamo sulle spine qui a aspettare. No, adesso arriva. Prima c'è questo. Okay. Tu casa, la notte che ho nuotato. Regia Kohei Iragashi e Damien Manivelle. L'avventura di un bambino che vuole ritrovare il suo papà tra le nevi di un Giappone inedito. Tra le montagne nevate del Giappone, ogni notte un pescatore si reca al mercato del pesce del suo paese. Una notte il suo figlioletto di 6 anni, Takara, viene svegliato dai suoi rumori, e mentre il resto della famiglia dorme, piccolo fa un disegno per quel papà che vede così poco e lo mette nel suo zainetto. La mattina ancora assonnato, perde la strada per la scuola, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una piccola storia quotidiana molto giapponese. molto minimalista, ma dice molto bella. Questa bello. Fotografia veramente intensa. Potete trovare questo film oggi alle 20, domani alle 16.30, alle 18 e mercoledì alle 16.30, alle 19.45 allo spazio 1. E adesso arriviamo a... Pronti? Vai. Vai. Ci sono? Che disagio. Vai. Allora. L'ho perso. Dai, American dai. Animals. Anteprima mercoledì 29. Quello della grande rapina. Sì. Con le maschere da animali. Bello, lo sapevo, lo sapevi già, lo sapevo. Non mi deludi mai, veramente. Ma, che gioia. Anteprima mercoledì 29.05, American Animals. Dove? La vera storia della rapina più imperfetta d'America. Al Cinema Spazio 1, okay. Sempre stavo parlando, scusate, del Cinema Spazio 1. Allora, American Animals, io lo aspetto molto, poi magari rimarrò delusa. Però lo sto aspettando da tanto. E un po' per tutto, un po' per come è... come il packaging, un po' per perché ci sono degli attori che mi piacciono molto. Un piccolo grande film, probabilmente non è una produzione gigante, chiaramente rispetto. Ok. Spencer e Warren sono due amici cresciuti a Lexington, Kentucky. Studiano all'università ma vogliono dare una svolta alla loro vita. Per farlo sono pronti a tutto. Il loro obiettivo diventa rubare un rarissimo libro antico di ornitologia. Che è una bella bestia. No, è stupendo, c'ha tutti questi dipinti dentro fatti a mano, che tra l'altro sono dei riferimenti a dei dipinti che esistono davvero al Victorian Albert Museum, che io ho visto quest'inverno, quindi mi sono rasata. Ciao, va bene. Il loro obiettivo diventa rubare questo rarissimo libro antico che, malgrado l'enorme valore, viene custodito nella biblioteca universitaria senza particolari misure di sicurezza. Reclutati altri due compagni, iniziano a programmare il colpo fino agli ultimi dettagli, ma li attende una serie di rocamboleschi imprevisti. Allora, guardate il trailer perché è incredibile, perché non so se sono veri, cioè non so se è un fake, però ci sono i veri, cioè quelli che davvero hanno fatto la rapina, intervistati, e poi ci sono i loro controparti. Oh, okay. Non so se sono davvero loro quelli veri, perché mi sembrano molto fighi. Non so se sono davvero quelli veri, un po' troppo fighi, però forse sono i veri, si sono mantenuti bene, non lo so. Poi ci sono quindi le interviste ai veri rapinatori e poi la controparte. E è molto comico, ci sono questi sketch in cui loro si ritrovano dentro l'università, tipo che stanno cercando di rubare il libro, e poi c'è la gente a studiare, non sanno come fare a scattare. No, bello, si va. Ed è il 29.05, quindi mercoledì al Cinema Spazio 1 alle ore 21.15, e poi lo rimettono in programmazione comunque nei giorni seguenti, quindi vi invito a controllare il programma del Cinema Spazio 1. Bene, mi premeva questo, ma in realtà al Cinema Spazio 1 c'è un botto di roba figa questa settimana. Oggi c'è tipo Che fare quando il mondo è in fiamme, anche martedì 28 in inglese con i sottotitoli, che è anche questo imperdibile, praticamente di Roberto Minervini, un documentario, riflessione sul concetto di razza in America. Judy cerca di mantenere a galla la propria famiglia allargata mentre gestisce un bar minacciato dalla gentrificazione. Ronaldo e Titus, due giovani fratelli, crescono in quartiere affetto dalla violenza, mentre il padre è in prigione. Ambientato a New Orleans, il gruppo rivoluzionario del Black Panther si indaga sul linciaggio di due ragazzi nel Mississippi. Insomma, un film mosaico sulla razza, su cosa significa essere black in America in questo momento, cosa ha significato prima. Stupendo. Che fare quando il mondo è in fiamme. Se non lo potete vedere al cinema, in streaming, perché è un bellissimo, veramente. Spaccano lo Spazio 1 questa settimana, veramente, bravi, complimenti. Bravi. Un altro molto bello, lo Spazio 1, e qui concludo, perché non c'ho più voce. Bellissimo film con Judi Dench, super dame Judi Dench, super attrice, per chi non se la ricordasse, tutte le parti di persona anziana negli ultimi 20 anni, fatte Helen Mirren o Judi Dench o la mitica Maggie Smith, che però professoressa McGranit, e che ve lo dico a fare. Allora, l'ho perso, lo riprendo, ok, anche questo in programmazione in questi giorni, ed è, si chiama, ve lo dico subito, dai, ce la posso fare con questo telefono. Allora, Red Jordan, da lunedì 27 a mercoledì 29, versione originale con i sottotitoli, e guardatevi i giorni, gli orari, per favore, perché li ho persi. Regista Trevor Nunn, un cast di un thriller con Judi Dench, Sophie Coxon, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, aiuto, La vera storia di John Stanley, un'anziana che conduce una vita tranquilla e umile, che nei primi anni del terzo millennio viene improvvisamente arrestata con l'accusa di essere stata una spia al servizio del comunismo negli anni del college, tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Nel serrato interrogatorio che segue l'arresto, mengerà dopo oltre 40 anni la vera identità dell'agente Lotto, ma soprattutto le ragioni che la mossero a tradire. Stupendo, veramente bello, un super cast inglese, Inghilterra 2018, 101 minuti, programmazione da fino a mercoledì in vari orari, martedì alle 21.30 con i sottotitoli e mercoledì alle 18. Ragazzi, lo spazio in questi giorni spacca, andate, accorrete numerose, numerosi. Evviva. Io svengo. Vai. Più ossigeno al cervello. C'è spazio anche per svenire. Bene. Siamo sul gran finale. All'occupazione urania della Squirt verranno fatte delle proiezioni, se la, così, se la vita ci assiste, da comunicare. Seguiteci su FB. Dove? Su FB. C'è anche un FB. C'è un FB. Urania. Abbiamo Urania. Squirt. Squirt, sì, Squirt. Squirt Parade. Squirt. Molti sono inseriti nelle, nelle nostre vari chat che stanno cominciando a diventare molteplici. Quindi per mail, insomma, un sacco di gente è avvertita. È così. E di rimbalzo vi faremo sapere todos. Sono buttate il termine. Restate sintonizzati. Meno male che il termine funziona. E bene, caldo. Bene. E finisce qui? Ah, non lo so. Io non ho più voce. Sì, dai. Io penso che finisca qua. Sì. Finisce qua. E saluti a tutti, grazie per aver seguito la 96esima puntata di Fuoco grazie, alle Polveri. Grazie, scusate la confusione, ma davvero oggi verso i 100. Siamo verso i 100. Siamo verso i 100, e quindi fra 4 settimane, no, 3 settimane, lunedì, la 100esima puntata. Sarà una grande puntata. E vi ricordiamo di attraversare sempre anche lo spazio liberato della polveriera. Oh, yes. Che ha sempre bisogno di forze. Di presidio e forze. Di presidio e forze, lo spazio liberato femminista, transfemminista, Urania, lo spazio, tutti gli spazi, tutti gli spazi, tutti gli spazi, e un sacco di roba, tutti gli spazi, no? In particolare settimana prossima, cioè questo fine settimana, all'Emerson, ragazzi, cioè, dai, più vivi che mai. Quindi ciaone Nardella, ciaone a tutti, anche a ciao. Non ci vi vogliamo bene, non vi vogliamo bene, vi andiamo nel culo, voi fate il vostro, ciao, la mamma di Olmo, no, ciao. Fuoco alle polveri. Fuoco alle polveri. Radio Bomba.